il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Siamo a poche ore dall'inizio del 66esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo e noi invece stiamo raccontando il Festival di Sanremo, stiamo ripercorrendo le altre edizioni soffermandoci su qualche edizione particolarmente significativa per me e per il paese, perché il festival ha sempre seguito un po' la strada, il percorso di questo paese. E quindi raccontiamo un'altra edizione a cui ho avuto la fortuna di partecipare, quella del 1984. Anche quell'anno il festival si svolge presto, dal 2 al 4 febbraio, siamo ancora ai festival delle tre serate. Dopo 16 anni torna al festival, torna sul trono del festival Pippo Baudo, e non lo lascerà più tanto facilmente, perché dopo quell'84 presenterà il festival altre 11 volte. La sigla del festival si chiama Rose su Rose, è cantata dalla invisibile Mina. Il festival è particolare perché le case discografiche cominciano a lamentarsi dell'acustica, dell'impianto e ritengono sia impossibile fare suonare un'orchestra in modo decente senza danneggiare i cantanti, quindi si canta in playback. Ma quella non è l'unica novità, c'è una novità di regolamento, perché l'anno prima ha vinto a sorpresa una esordiente che si chiamava Tiziana Rivale, sarà quel che sarà. Peraltro la cosa strana è che quell'anno c'era l'italiano di Toto Cutugno e c'era anche Vita Spericolata di Vasco Rossi. Ciò nonostante vince lei e insomma i big non la prendono bene e soprattutto anche il mercato discografico rimane un po' spiazzato da quella vittoria. Così si torna alla soluzione più diplomatica, due categorie, big e nuove proposte, e a fianco di Pippo Baudo ci sono delle vallette co-conduttrici, Edi Angelillo, Rossa e Riccioluta, e poi Elisabetta Gardini, Iris Peinado, una bellissima, non che le altre non lo fossero, Tiziana Pini, e poi ci sono anche due bambine, Isabella Rocchietta e Viola Simoncioni. Ora inizia tra la... Ora inizia tra gli evviva, ora inizia tra gli evviva la serata conclusiva. Siamo contenti, siamo felici di far qui l'annunciatrici. I bambini sono il nostro avvenire, sono la nostra vita, il nostro domani, il nostro futuro. Buonasera, buonasera. Dunque, buonasera. Buonasera. Insomma, quella che oggi si definirebbe paraculaggine comincia a fare capolino all'interno del festival, e i bambini da quel momento sbarcano in televisione e non se ne andranno più, con tutto vantaggio per gli ascolti, magari qualche vantaggio in meno per la, come dire, l'educazione dei figli. Comunque parte il carrozzone del festival, 20 big, 16 nuove proposte. Tra i big c'è un grande ritorno, quello di Patti Pravo, 14 anni dopo il successo della Spada nel cuore, e poi c'è il gruppo tradizionale Bobby Solo, Iva Zanicchi, Toto Cutugno, che ormai è quasi diventato un cantante classico, non so, Christian, poi c'è Pupo, Anna Oxa, Drupi, poi ci sono quelli un po' più giovani, Fiorella Mannoia, Fior D'Aliso, Mario Castelnuovo. E poi ci sono gli Stadio, Alberto Camerini, il gruppo italiano che ha sbancato poche estati prima con Tropicana. E poi ci sono i primi scandaletti, una cantante che si chiama Silvia Conti viene squalificata perché il brano risulta già ascoltato. E poi Loretta Goggi dà forfè prima dell'inizio del festival e arriva Pupo con una canzone di Tozzi che si chiama Un amore grande. E poi finalmente ci sono io che ottengo la wild card per entrare di diritto nella categoria Big e mi presento al festival per la prima volta da solista con una canzone che si chiamava Nuovo Swing. Ma ogni festival che si rispetti deve avere un premio e una giuria, e al posto delle giurie demoscopiche si vota con il Totip. In pratica, quando si va a giocare la schedina del Totip viene consegnata una cartolina con l'elenco dei cantanti in gara. Bisogna fare una crocetta sulla canzone e il gioco è fatto. Certo, il meccanismo non è limpidissimo, perché se tu cominci a comprare cartoline o addirittura accedi al meccanismo delle cartoline dei giocatori abituali, che quindi lasciano lì la cartolina senza giocarla, e in qualche modo puoi anche votare per te stesso. E questo almeno è quello che dichiara Pupo al quotidiano La Repubblica qualche anno dopo. Mi dissero prima del festival che per i primi tre posti non c'era più niente da fare, ma se mi impegnavo si poteva per il quarto posto. E allora mi sono buttato a comprare schedine del Totip. 75 milioni mi è costato e sono arrivato quarto. Ma mi sono pentito. È una cosa che non rifarei più. Beh, all'elenco dei protagonisti mancano i vincitori, li abbiamo lasciati per ultimi e ne parleremo dopo. Comunque, quell'anno il festival lo vincono Albano e Romina. Ma c'è anche la categoria giovani, e qui c'è un ragazzo che è stato notato al festival di Castrocaro, che peraltro non ha neanche vinto. È stato notato da Ravera, che lo porta al festival, e in realtà Ravera lo fa conoscere a un discografico che si chiama Galanti, che ha una casa discografica che si chiama la DDD Drogheria di Drugolo. E questa etichetta discografica lo prende sotto la sua ala e lo porta a Sanremo, e lì lui diventa immediatamente l'idolo delle ragazzine, perché sbanca con una canzone che si chiama Terra Promessa. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando del festival del 1984, insomma, come sempre a Sanremo c'è un po' di tutto, ci sono cantanti che arrivano da scuole, mondi diversi, ci sono gli epigoni di un mondo di canzoni romantiche abbastanza semplici, che un mondo che sta morendo per sempre. Mi vengono in mente, con tutto l'affetto, i Collage, Flavia Fortunato, Marco Armani. C'è un ragazzo che si chiama Fabio Vanni che canta una canzone che non si piazza, però ha successo in radio, Lei balla sola, era una canzone di questo genere. Poi c'era Eros Ramazzotti, che abbiamo già citato poco fa. E poi c'era una canzone con un gruppo il cui nome era stato inventato da me, a cui avevamo affidato una canzone scritta da me e dal mio chitarrista Luigi Schiavone. Il titolo della canzone era Sonnambulismo, e loro erano i Canton, che è il titolo anche di un brano dei Japan, che erano uno dei miei gruppi preferiti in quel periodo. Canzone che ebbe anche un buon successo, uscì una versione inglese, ogni tanto nelle discoteche qualcuno la rimissa e la riballa, e quindi questo Sonnambulismo, insomma, è stata la mia prima esperienza come autore al festival. E poi c'era Fiorella Mannoia, che piano piano, insomma, si stava avvicinando a un successo che arriverà tre edizioni dopo, e vi racconterò anche come. E poi invece c'era Fiordaliso, che ha successo con Non voglio mica la luna. E poi c'era Anna Oxa, che comincia a far innamorare tutti con i vestiti aderenti, sguardo ammaliante. E poi c'era un altro personaggio che scese dalle scale dell'Ariston e fece parlare tutti, ma non per gli spacchi o per delle gambe messe in mostra, per altre cose, e non cantava. Innanzitutto è poco, anche stavolta. Che cosa poco? L'atmosfera. Vai dietro e ti richiamo. Aspetta, vai. Che faccio come, fammi fare come un divo di quello. Vai, che ti richiamo. Fammi, signore e signori. Signore e signori, con immenso piacere, con grande gaudio. È poco. E anche con una velata, non velata, commozione. Sì, fammi scendere. Con il cuore entusiasmato. Sì. Sì. Con la passione più grande. È poco. È poco, anche che vuoi. Ho il piacere, l'onore, sì, l'alto onore, sì, di presentarvi, sì, Beppe Grillo. Te l'ho lì. E Baudo dimostra di essere una grande spalla e presenta Beppe Grillo, che in quell'anno è al culmine della sua carriera di comico, peraltro anche lui scoperto da Pippo Baudo. In realtà, quando Baudo dice l'ho scoperto io, non va lontano, perché spesso è accaduto veramente così. Lui lo ha scoperto in un cabaret milanese nel 77 e lo ha veramente lanciato, gli ha dato grandi occasioni e lo ha portato al Festival di Sanremo, facendo della sua pungente ironia un'arma a doppio taglio, fino a quando nell'86 farà una battuta su Craxi e sui socialisti, che praticamente provocò il suo allontanamento dalla televisione italiana. Ma mai De Mita avrebbe sospettato che Craxi in Cina si portava un 3 o 4 mila persone. E allora, dove vogliamo vedere? E poi ha fatto la cena, queste non l'hanno pubblicate sui giornali. La cena in Cina, c'erano tutti i socialisti con la delegazione, mangiavano, no? A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili, ha tornato Craxi e ha detto: ma senti un po', qua c'è 1 miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto: sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano? Terribile questo. Gelo in sala, me lo ricordo benissimo, gelo, qualche applauso di circostanza e dietro le facce dei funzionari Rai che avevano già decretato la fine di Beppe Grillo e per lungo tempo lui in Rai non metterà più piede. Ma torniamo a parlare della musica. C'è anche lei, Nicoletta Strambelli, in arte Patti Pravo, che arriva con una pettinatura incredibile, tutti i capelli in piedi, stranissima, ma canta una canzone che non era male, che si chiamava Per una bambola. Oh, bambola. Beh, insomma, devo dire che ogni tanto Patti Pravo, quando deve calare il jolly, dice bambola e in qualche modo tutta il circo si rimette in moto. Però a Sanremo ci sono anche gli ospiti stranieri. Nell'edizione dell'84 arrivano Randy Crawford, arriva Bonnie Tyler, arriva Gilbert Montagnier e poi ci sono dei pezzi forti, e tra questi c'è una band che ha in quegli anni il massimo del suo fulgore, soprattutto per il suo leader. Erano i Culture Club di Boy George, che sono freschi di successo con Karma Chameleon, con Do You Really Wanna Hurt Me, portano questa canzone Victims, che parla del disagio, della sofferenza del mondo omosessuale, ma tanto il testo era in inglese, quindi noi non è che lo capiamo e va bene così, e non erano ancora forse tempi per sdoganare nessuno. Boy George comunque ha un grosso successo dal palco di Sanremo. Però soprattutto quell'anno a Sanremo arriva uno dei gruppi più importanti del mondo, e tra l'altro uno dei miei gruppi preferiti, e tra l'altro io che ero lì riesco a strappare a un mio amico discografico la promessa di poterli conoscere, di fare una foto, che era un po' più complesso, non c'erano i selfie, dovevo arrivare col fotografo e fare la foto con loro. Tutto va per il meglio, poi invece io arrivo nel ristorante e questi avevano litigato tra loro, un litigio clamoroso che uscirà anche in una loro biografia del litigio si parlerà del litigio di Sanremo, insomma. Quindi io arrivo e questo discografico, Michele di Lernia si chiama, mi disse: Harry, non c'è sta niente da fare, sono incazzati de brutto. E quindi finisce con me che non riesco a conoscere i Queen, che erano arrivati a Sanremo a cantare Radio Gaga. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando il Festival di Sanremo del 1984, anno di ormai completata resurrezione del Festival dopo i momenti negativi della fine degli anni 70, anno in cui Pippo Baudo, come dire, riprende lo scettro, il timone delle operazioni, che mollerà a fatica e che comunque terrà a lungo, credo, altre 11 edizioni da quella volta. E stiamo raccontando anche del mio nuovo swing, cioè del mio debutto da cantante solista. In realtà, insomma, emozione poca, anche perché si cantava in playback, consapevolezza che la canzone era interessante, ma sicuramente non poteva ambire a grandi performance dal punto di vista della classifica. Arrivò penultima e ultimi arrivarono gli Stadio. Spero non sia foriera di sventure questa classifica, perché gli Stadio e il sottoscritto sono anche nel festival che inizia oggi, e quindi insomma speriamo che non vada così. Ma Transat di fatto è un festival che io ricordo con molto affetto, non con particolare emozione, perché come ho detto prima in realtà si cantava in playback e quindi insomma il margine di errore era minimo. In realtà io il playback lo sbagliai, probabilmente non avrei sbagliato se avessi cantato dal vivo. E oltre ai grandi ospiti stranieri sul palco dell'Ariston arrivano molti italiani: Nino Manfredi, Alida Kelly, che era la moglie o l'ex moglie, non so bene, non mi ricordo, però insomma chiamata da Pippo Baudo ovviamente, Pippo Franco, e poi arrivano degli ospiti italiani che in qualche modo non sono cantanti ma cantano. Ma c'è un super ospite italiano, una persona che con il Festival di Sanremo ha sempre avuto un legame strettissimo, quasi maniacale. È Claudio Villa, che Baudo vuole a tutti i costi, e lui arriva e canta una canzone che poi avrà un grande successo nel mondo, non solo cantata da Claudio Villa. È stata scritta da un musicista che fino a quel momento era stato un po' di seconda fascia e che invece con quella canzone si è sistemato, lui e i suoi figli e i suoi nipoti. Si chiama Guido Maria Ferilli e canta la canzone che si chiama Un amore così grande, Claudio Villa. Ma io a proposito di questo festival vi ho raccontato praticamente tutto tranne chi è il vincitore, e mi sono tenuto questa notizia per ultimo perché il colpo di scena è che il vincitore è anche con noi, e perché nel Festival 1984, quello che mi consegna al penultimo posto a trionfare, è una canzone che si chiama Ci sarà, in coppia con Romina Power. Il vincitore è Albano, che noi abbiamo. Buongiorno, buongiorno Albano. Carissimi, ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Senti, noi stiamo raccontando il Festival di Sanremo e siamo arrivati all'edizione 1984, e intanto che ricordo hai tu di quel festival? Fa sempre piacere. È stato fantastico da una parte, perché era inaspettato per me e per Romina sicuramente, ma lei, essendo americana, non è che gli importasse granché di vincere o di perdere. Io invece ci tenevo che questo risultato arrivasse, ed è arrivato, però con una differenza: quell'anno lì c'era anche Toto Cutugno con Serenata, certo, e in qualche modo aveva già la vittoria in mano. Ricordo che ho già fatto la copertina per Sorrisi Canzoni, sì. Ma poi arrivò una valanga di cartoline, 1.940.000 per noi, e fu la vittoria inaspettata, con una differenza: che il grande capo della casa discografica di allora, Freddy Najjar, sì, aveva preparato in due ristoranti le cene. Aia. È solo che lui era convinto che avrebbe vinto Toto, sì, e l'aveva quasi anche promesso, e quindi sembrava più una, non una festa ma una cena di consolazione, perché andava da quella parte ed era incavolato, veniva da me e c'era incavolato, e ovviamente non mi faceva fare salti di gioia. Quindi fu una vittoria un po' amara per certi aspetti, ma fantastica sotto altri. Poi successe anche che un impresario incominciò a inventarsi che avevo firmato dei contratti che non volevo rispettare, quindi tutto un casino. Però, ecco, questo è ciò che ricordo del Festival dell'84. Ma la cosa che ricordo benissimo invece è che ancora oggi, dopo tanti anni, appena attacco quelle note la gente ancora impazzisce, ed è la cosa importante di quel festival. E infatti questo mi suggerisce la domanda successiva, no? Perché vabbè, tu sei andato da solo con Romina molte volte al festi. Quante, ti ricordi quante? 16. Però 16 volte. Naturalmente, insomma, come tutti, sono andate credo tutte bene, però ci sono alcune che sono andate ancora meglio. Felicità, credo, contraddicimi se mi sbaglio, è la canzone più famosa tua tra quelle che sono state al festival. Sicuramente la più famosa, la più amata e soprattutto la più internazionale. La più internazionale, ecco. Ma quanto conta oggi vincere un Festival di Sanremo? Quanto contava allora e quanto conta nel 2016? È un po' calato l'interesse all'estero per quanto riguarda Sanremo, e bisogna sottolineare anche che, nonostante sia stato ancora oggi il festival più copiato, più scopiazzato. Se noi guardiamo i vari X Factor, amici eccetera, tutto è basato sulla gara. E se noi sappiamo e lo conosciamo, lo sappiamo bene, Sanremo è nato come gara. Certo. Con la differenza che prima nel mondo aveva un eco pazzesco, nei paesi comunisti, nei paesi dell'asse sovietica, era qualcosa di quasi di sacro, e oggi invece è un po' scemata questa situazione. Però mi rendo conto che gente come sia Morandi, sia Paolo Bonolis, sia Conti ci stanno tanto dentro per forse qualche conduttore che non, insomma, in qualche modo ha fatto un po' troppo raffinato e ha fatto perdere l'appeal. L'hanno trasformato in qualcosa che Sanremo non è. Sanremo è gara, deve essere una gara serrata, deve essere poi l'intervallo del comico del momento oppure del personaggio del momento, però la forza di Sanremo è sempre stata la gara. A te piace, devo dire, tu ci trovi bene. Mi ricordo l'anno scorso che eri ospite, hai detto sì, però andare in gara è tutta un'altra cosa. È tutt'altra cosa, tutt'altra emozione. Io ho seguito il tuo consiglio. In quei 3 minuti devi dare il massimo, no? devi esprimere il massimo, devi essere un concentrato di energia. Invece quando vai come ospite sai che non io ho seguito il tuo consiglio, l'anno scorso ero ospite, quest'anno sono tornato, ti ho ascoltato e ho seguito il tuo consiglio. Senti, tu sei mai stato eliminato in gioventù a Sanremo? No, mai. Neanche, vedi, mai. Quindi no, non hai mai sempre, ma anche per quello ti piace la gara, le vinci sempre. Esatto. No, ma poi mi diverte perché quando uno nasce nel mio caso nel sud Italia e vivevamo Sanremo come se fosse il Natale pagano, come se fosse qualche cosa che aspettavamo un anno per vedere che cosa succedeva, tutti quanti scommettavamo che avrebbe vinto l'uno o l'altro, Modugno o Villa, quindi c'era qualche cosa come le partite di calcio da sempre, no? Certo, partite di calcio non si sono mai sognati di cambiare la stesura del calcio, perché la partita è quella e tale deve restare nella storia. Sapremo chissà perché l'hanno cambiato in maniera proprio. Io ricordo il primo anno, mi ritrovai, era il 1968, forse tu non eri ancora nato. Sì. Cantavi la siepe, per caso? Esattamente. Beh, in copia con Bobby Gentry. Sì, da un giorno all'altro mi trovai a fianco a Satchmo, Armstrong, Springfield, poi Adriano Celentano, Modugno. Cioè, mi sembrava di sognare, cavolo. Il primo anno, insomma, di successi. E mi sembrava proprio un gran bel quanto regalo, tempo dopo quando eri cameriere al dollaro, l'anno prima, 2 anni prima. No, il cameriere al dollaro era 1963. Beh, poi insomma, mollai, me ne andai in una fabbrica di metalmeccanico lì alla Innocenti. Vedi. E appunto dico il salto tra l'ultimo lavoro comune e vedere Armstrong davanti. Cos'è passato? Un anno. Dalla catena di montaggio. Esatto, passai nel 66, passai poi ad essere famoso. Caspita, un bel colpo. Nel 67 con la consacrazione con Nel Sole. Beh, tutto strameritato. Quindi cosa devo fare? Devo dire a Conti di tenerti un posto per l'anno prossimo? Molto probabilmente sì, vabbè, ma glielo dico io. Va bene, se chi lo vede, no, magari già che ho occasione di incontrarlo, gli anticipo questa la notizia. Ok, Albano, ti ringrazio infinitamente. Buon festival, riesci a guardarlo? Lo guardi il festival? Sì. Va bene, ciao. Un abbraccione forte. Ti amo di più. Ma naturalmente a Sanremo accadono anche cose che non hanno a che fare con la musica, almeno non strettamente, ma è talmente alta la cassa di risonanza che a Sanremo fa comodo andarci anche se non fai il cantante, e quindi le incursioni di Cavallo Pazzo, i tentati suicidi eccetera eccetera. In quell'edizione accade una cosa molto particolare, perché ci sono fuori dal teatro Ariston le proteste degli operai dell'Ital Sider di Genova, e non erano proteste leggere, marciano su Sanremo e arrivano con chiavi inglesi, spranghe e quant'altro, cioè era spacchiamo tutto, almeno questa era la sensazione che si respirava all'interno del teatro Ariston, e si sentivano poliziotti che dicevano bisogna sospendere il festival. Insomma, la situazione era veramente a rischio. A questo punto arriva il colpo d'ala di Pippo Baudo, che dice: vado io, ci vado a parlare io. Io ovviamente mi getto, mi butto dietro a Pippo Baudo, curiosissimo per vedere cosa succedeva. E Pippo Baudo esce dal teatro, dalle vetrate del teatro Ariston, fende il cordone di poliziotti con casco e scudo e si getta in pasto ai manifestanti. E io che guardavo dicevo: adesso lo ammazzano e io assisto in diretta all'omicidio di Pippo Baudo. E invece questi, soggiogati dalla personalità di Pippo Baudo, cominciano a discutere su chi tra loro doveva andare sul palco dell'Ariston a parlare. Insomma, Pippo Baudo vince con il carisma e dopo pochi minuti gli operai, tre operai dell'Ital Cider salgono, si scusano, hanno un tono assolutamente dimesso perché sono intimiditi. Andatevi a guardare le registrazioni dell'epoca, sono totalmente intimiditi. Scusate, non volevamo disturbare, ma noi il posto di lavoro, eccetera, eccetera. Baudo li liquida, gli operai tornano a casa e il festival è salvo e si continua. Così va il mondo e andava quell'Italia. Insomma, questo fu il grande colpo d'ala, e tra colpi d'ala, grandi sorprese, tra momenti di classe e cialtronate, tra polemiche e gossip, il Festival di Sanremo va avanti, è andato avanti, è arrivato alla 66esima edizione che comincia oggi. Ma il nostro percorso prescinde dal Festival di Sanremo e io saprò sdoppiarmi per voi. Qua io vi racconto solo delle storie del Festival. E quindi con queste storie noi ci vediamo domani.